Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao, buongiorno a tutti. Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, il capitano. Un fine settimana con un sacco di cose dentro, non tutte positive per la verità, adesso lo sapete benissimo. Ma un lunedì che sembra non male, con le notizie che arrivano. C'è ad esempio quella di Stefano Domenicali che lascia il suo posto alla Ferrari, dice, per dare una scossa alla squadra. Mi sembra sia un po' tardi, comunque poi ne parliamo. Questa sera la Juventus vorrebbe invece lasciare di nuovo la Roma senza speranze, o con pochissime speranze, più o meno realistiche. Noi invece vogliamo da oggi vestire i nostri amici convocati. Abbiamo una nuova grifa, ragazzi, nuove magliette speciali di tutti i convocati che, insomma, omaggeremo ogni giorno al migliore in campo tra voi. 800 24 00 24, e il migliore in campo a nostro insindacabile giudizio, soprattutto del signor Piantanina, avrà la maglietta di tutti i convocati. Poi ce n'è un'altra invece, una volta alla settimana invieremo, regaleremo una maglietta speciale con un autografo di un grande campione tra quelli che, insomma, sono abitualmente nostri interlocutori. Come potete fare per vincerla? Allora, andate sul sito www.radio24.it, trovate un form dedicato a questa iniziativa e ci inviate un file MP3 della durata massima di 60 secondi, perché vogliamo voi come commentatori, non solo Pardo, che saluto. Ciao Piero. Pronto sei? No. Eccoci, va bene. Finisco di elargire magliette, Allora, 60 secondi, un vostro commento su un fatto della settimana, su un fatto del weekend. Ovviamente non può che essere il fatto del weekend quella cosa che è successa a Genova. Insomma, pioggia di gol, adrenalina, testosterone un po' buttato via, secondo me, tutta questa storia. Adesso si mettono anche le donne dei giocatori a decidere le partite, robe da pazzi. Comunque mandateci un vostro commento, postatelo lì e poi giovedì vedremo di chi è il commento migliore. Tra l'altro, chi vince questa maglietta sarà nostro ospite qui a Radio 24 per continuare ad essere commentatore con noi per un giorno. Dunque, ho detto tutto? Franco Piantanini, ho detto tutto? Ci siamo? Via! Allora, partiamo da Genova? Pier? Sì, partiamo da Genova. Cosa dici? Una storia meravigliosa. Meravigliosa. Ma sì. Ma si può ridursi così? Ma ridursi come? Ci sta, dai, in amore, in guerra, in amore, tutto è permesso. Cioè, voglio dire, allora, da che punto la vuoi vedere? Come la vogliamo vedere? La voglio vedere dal punto del nuovo tweet di oggi. Sì. L'hai visto di Icardi? Io ho visto quello di ieri, quello che stava a dormire. Buonanotte a tutti. No, io ho visto anche quello di oggi. Allora, foto di un volante, del volante della sua macchina. Neanche pubblicità occulta, proprio pubblicità. Comunque, volante della sua macchina, lui che impugna il volante facendo gesto delle corna, no? Impugna il volante facendo gesto delle corna con scritto: Vanda, perché mi fai guidare così? Vanda, perché mi fai? Mi fai guidare così. Con le corna, ma ti rendi conto? Ma questo è Icardi? Icardi, esatto. Cioè, non lo so, poi ieri ho detto anche un sacco di parole, ho intervenuto un ascoltatore, ma in fondo non è che gli hanno fatto tanti falli. C'è stato un clima di intimidazione assoluta dentro quello stadio. È stata una partita, insomma, molto condizionata, se vogliamo, da questa vicenda, Piero. Ma questo mi piace, no? Sono matto io. No, ma diciamo, gli dire, a parte, alla fine, diciamo la verità, è un Samp Inter abbastanza di fine stagione, utile per l'Europa League dell'Inter, no? Sì. Non esattamente per la partita scudetto. No, abbiamo trovato un significato da questo punto di vista, ci sono stati tutti gli ingredienti proprio del teatro, della commedia dell'arte, le maschere, il marito cornuto, il nuovo giovane, cioè, questa roba qui c'è. Poi è ovvio che dal punto di vista diciamo morale, possiamo pensare quello che vogliamo, dal punto di vista dei figli ci penseranno sì. i tribunali, dal punto di vista della comunicazione mille volte ci ho detto, ho detto non personalmente, ma insomma ai Cardi e Bandanara, che uno può mandarsi dei messaggi in privato anche molto rapanti senza per forza appunto cioè, ma quello che, ma infatti quello che non sopporta è la divulgazione di tutta questa, cioè il fatto di rendere pubblica tutta questa vicenda, ma certo, poi però ieri alla fine si sono affidati a duello e il duello c'è stato. Sì. Meglio questo dell'ipocrisia, no? Uh-huh. Ieri c'è stato uno che rosica per amore da matti, e un altro che gode in questo momento da matti e si sente un superuomo. Uh-huh. E questa rappresentazione c'è stata in campo. Sì. Poi è chiaro che si può essere molto, si può stigmatizzare il comportamento di Cardi, la lettera dei tifosi della Samp e la condivido, nel senso che è chiaro che questo è un giocatore che l'anno scorso giocava con la Samp, ha vinto il derby all'andata, ha segnato il derby contro il Genoa, mi risulta che non sia stato trattato male in generale dai tifosi della Sampdoria, se non ovviamente ieri, ma per un discorso normale di contrapposizione che a questo punto ci doveva stare, quel gesto lì è una provocazione, però ripeto, fa parte del calcio e della vita, mai come stavolta fa parte della vita, ci lamentiamo sempre che il calcio è fantastica, le frasi uno che provoca, l'altro che rosica. Anche io la trovo una situazione abbastanza rapante. Poi ti dico la verità, a me è stato talmente antipatico Icardi che considero un ottimo giocatore, si sta dimostrando un ottimo, non ancora un grande giocatore probabilmente, però in questo momento sta volando sulle ali di questa strana magia, però personalmente non lo sopporto, quindi anche questo fa parte del calcio, io posso dire io non lo sopporto. 800240024, Sara scrive: alla prossima ci sarà Maria De Filippi ad arbitrare Sampdoria Inter. Poi voglio chiederti un'altra cosa, tu dicevi prima di non era esattamente la partita a scudetto per nessuna delle due, io ieri abbiamo visto un sacco di gol, però sinceramente cominciamo anche a vedere un sacco di squadre che regalano, perché ci sono squadre che non hanno grandi obiettivi o che magari preferiscono scansare certi obiettivi dopo un campionato bellissimo, e mi riferisco soprattutto a quelle che si sono costruite una classifica da Europa League ma non hanno una grande intenzione, giustamente anche secondo me, vanno fatti i due conti, non hanno un grande interesse ad attraversare i preliminari di Europa League nella prossima stagione, e stiamo cominciando a vedere partite molto strane in cui magari anche per la gioia di Prandelli si aggiustano i tabellini dei goleador, vediamo un sacco di reti eccetera eccetera eccetera. Dopo il traffico, il commento di Pardo su questo punto, aspettiamo voi, 800240024 e un sacco di altri ospiti. Sì, tu rigorista della squadra e rigore lo ha calciato Maxi Lopez, ci spieghi com'è andata? Sì, il rigorista sono io, infatti mister Mihajlovic giustamente mi ha ripreso a fine primo tempo, perché se c'è nei fogli scritto che è del rigorista devo tirare io, però nel momento lì mi ha chiesto Max di tirare e l'ho lasciato la palla a lui, e niente, di tutto questo qua magari l'avrei fatto tirare lui lo stesso, però mi dispiace solo che avevo sbagliato. Tutti convocati. Dunque torniamo, 800240024, il vostro numero verde per rispondere alla convocazione e magari per portarvi a casa la maglietta speciale di tutti i convocati, che sa bene, i mondiali si avvicinano e quindi serve, io credo sarà la maglietta cult dell'estate. Allora Pier, guarda che c'è Non Leggerlo, che è un grande blogger, un uomo da 47.639 follower in questo momento. Quanti? Che dice che ti 49.000 quasi 50.000 follower? No, vabbè, ma è un blogger arguto che collabora con l'Espresso. No, ma dico, che dice che tu hai detto che Icardi meritava più falle, non so, di qualcosa di conciliante sui Icardi, dai. Non ce la fa, non mi viene. Ma cioè, come non ti viene? Non mi viene, cosa vuoi che ti dica? Posso dire, diciamo, nelle sue esternazioni su Twitter. Su questo siamo tutti d'accordo, però ieri ha dimostrato di avere anche... Ma certo, ma questo ha dimostrato di tenere cojones, ma sicuro, no? Ma anche a me piacciono quelli che, raccolgono le sfide. Ma no, lo so, però mi dà talmente fastidio questa... l'ineleganza di questa vicenda, la trovo di un, così, di un cattivo gusto, tale per cui non riesce a starmi simpatico. Mi piace come giocatore, ma non riesce a starmi simpatico. E io non so cosa dire. Sono d'accordo sull'ineleganza della vicenda in assoluto. Io soltanto questo dico, e pertanto non riesco a. Non me ne viene una. No, posso dire che si sta dimostrando un eccellente giocatore, ma d'altra parte avevamo capito anche l'anno scorso, no? Poi quest'anno ha avuto mille problemi, pubalgie e tutte le altre cose, quindi adesso, forse un po' tardi, perché c'era bisogno prima l'Inter un giocatore così, però adesso certamente si sta dimostrando un giocatore molto utile. Non so se possa essere il centravanti del futuro per una squadra che vuole essere grande, perché questo ancora non si può dire, però certamente sta facendo un finale di stagione meraviglioso. Mi dici invece di questa pioggia di gol, forse troppi per essere veri fino in fondo, ma sì, è chiaro che cominciano ad esserci un po' di obiettivi no, così che vanno e vengono intermittenti, e quindi questo ragionamento ci sta, l'ho fatto anch'io e sicuramente insomma si sa, nelle ultime giornate si segna un po' di più, un po' perché gli attaccanti devono segnare, un po' perché le difese sono così, magari un po' staccano la spina. E il campionato ha detto molto di quello che doveva dire. Stasera siamo aggrappati ovviamente dal punto di vista degli osservatori neutrali, sì, a quello che succederà fra Udinese e Juve, ma secondo me anche se dovesse succedere qualcosa di imprevisto, la Juve deve perdere 9 punti da qui fino alla fine. Trovatemi voi 9 punti, trovatemi 3 campi dove la Juve può perdere 3 partite e poi ragioniamo. No, ma sai cosa? Che cioè, è carino comunque questo gioco ad elastica, certo, di anticipi e posticipi, certo, che permette di leggere la classifica in trasparenza per qualche giorno o qualche ora. Adesso è meno 5, lo è da sabato, poi questa sera lo vediamo. Ma insomma, piuttosto mi domando a chi faccia riferimento di preciso Conte nel dire queste cose. In Italia o si è juventini o si è contro, quindi noi siamo sempre soli contro tutti, quindi non è che magari per loro è un fatto sporadico pensarlo, ecco, per noi è un fatto sistematico, però è stato sempre così, sarà ancora così, finché la Juventus vince sarà sempre sola contro tutti, ecco. Però c'è stato ultimamente, prima era diventata un po' più simpatica, ultimamente abbiamo di nuovo ripreso le giuste posizioni, che siamo orgogliosi di questo. Ma perché soli contro tutti? Ma che vuol dire soli contro tutti? Cioè è normale che insomma che il clima si sia, cosa vuol dire soli contro tutti? No, vuol dire che a Conte piace questo tipo di personaggio. Ma non è che gli piace perché lui sia un cattivo, in realtà chi lo conosce fuori dal campo sa che è una persona anche piacevole, anche godibile, anche divertente, sì, e però nel suo stile di leadership questi stimoli psicologici fanno bene. E non è il solo, Capello è un altro così, Lippi è un altro così, insomma questi allenato Mourinho. Sì, ma non hanno un così. No, Mourinho discutiamone, però anche Lippi e Capello non proprio così. Cioè, perché adesso ce li siamo un po' dimenticati, ma Lippi sono delle settimane che non lo potevi intervistare, se sbagliavi l'inizio della domanda ti fulminava. Sì. O Capello c'era un periodo che faceva. Sì, non sono al massimo della simpatia con l'interlocutore. Stiamo parlando di due fenomeni, ma cioè, certo, per lui. Ben chiaro, con mille. È che gli allenatori, che sono prima di tutto dei grandi gestori di uomini, di psicologie complesse, di gruppi umani complessi come quelli delle squadre di calcio, hanno bisogno in certe situazioni di questo tipo di. Sì, oppure va a cercare di aumentare la tensione, il voltaggio nell'attenzione dei suoi, anche dicendo queste cose. Poi in assoluto è vero, cioè è vero che l'Italia si divide in juventini e anti-juventini. Oggi io credo che se chiamiamo il signor Mannheimer o il signor Piepoli e facciamo un sondaggio, chi vorreste che vincesse il campionato? L'80% degli italiani probabilmente direbbe Roma, a parte gli juventini e i laziali. Vabbè, secondo me gli interisti sarebbero contenti, i milanisti sarebbero contenti, non so i napoletani, ma questo vale per tutte le grandi squadre, no? Sono sempre soli contro tutti gli altri, no? Perché è chiaro che gli juventini si trasformano quando è il caso in anti-interisti, anti-milanisti, quindi questo è un discorso che vale un po' per tutti, no? Un po' per tutte le grandi squadre, non è che è solo la Juventus soli contro tutti, tutto il mondo. No, piuttosto, prima di Salvatore da Salerno, Alessandro da Napoli, che vedo già in linea, vorrei chiosare su quel discorso che facevamo prima. Allora, secondo te, onestamente, Parma, Atalanta, Verona, Torino, queste squadre in Europa League ci vogliono andare o no? Ma io penso di sì, insomma, io credo di no. Il Torino ieri ha vinto, giusto? Sì. Ha vinto, certamente. Però vedi che hanno. No, ma vedi che vanno un po' a corrente alternata, cioè si vede che ne avrebbero ancora, magari. Vanno a corrente alternata perché sono squadre di metà classifica, di medio-alta classifica. Non è che sono squadre che vincono sempre e improvvisamente di fronte al traguardo cominciano a pareggiare e a perdere. Beh, insomma, l'Atalanta ne ha fatto una fila, poi ha perso in casa con il Sassuolo. Ho capito, però io sono. Cioè, mi sembra dietro logico dire che siccome l'Atalanta ha vinto 6 partite e poi ha perso in casa col Sassuolo, ecco, adesso vogliono perdere. Due settimane prima hanno vinto con Livorno e volevano vincere. Non lo so, mi sembra. Allora, che ci sia, sai che con me sfondi la porta aperta, che ci sia una sottovalutazione tout court dell'Europa League, io sono pronto ad autoflagellarmi. Non è questione di sottovalutazione, cioè è questione anche di fare due conti. Cioè, se sei una squadra di questo tipo, ti trovi a dover affrontare un preliminare, iniziare prima la stagione, dover rinfoltire la rosa, perché poi vai a spaso per l'Europa e questi fisicamente potrebbero non farcela più o non bastare, non essere sufficienti. Cioè, è un rischio, ti costa un mucchio di soldi, non ci ricavi granché. Sai cosa sarebbe bello? Sarebbe bello, fosse possibile, monetizzare il diritto, no? Cioè, tu raggiungi l'obiettivo, poi vendi il titolo, vendi il diritto a chi è interessato ad andarci. Questo potrebbe essere una minima proposta che farei è quella di assegnare dei premi a posizione in classifica. Cioè, comunque sia, secondo me, se nella scala dei premi ci fosse una gradazione per cui arrivare undicesimi è meglio che arrivare dodicesimi, sì, arrivare dodicesimi, sì, è meglio arrivare tredicesimi e vice e così, sì, via. Se tu dici un premio in denaro potrebbe essere uno stimolo. Potrebbe essere, sì, per sì, il resto poi abbiamo un campionato a 20 squadre con 3 retrocessioni, quindi abbiamo un campionato che in assoluto nelle ultime giornate è assolutamente spesso privo di senso, perché ti trovi quest'anno c'è un'Europa League divertente, per cui diciamo che fino al Verona hanno ancora tutti in qualche modo un obiettivo, sì. Le squadre veramente tranquille in questo momento sono 3: Samp, Genoa e Udinese, sì. Tutte le altre ancora qualcosa hanno da fare, da lottare, diciamo che anche il Cagliari mi sembra abbastanza salvo, però, sì. Però in assoluto se ci fossero 4 retrocessioni, o meglio se ci fossero 18 squadre, probabilmente queste cose non si verificherebbero, sì, sì, sì. Allora, Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io volevo parlare del post partita ieri alle 5 su Sky, no? A proposito di Massimo Mauro, mi sembra si chiama, sì. Che aveva fatto una domanda a Mertens, no? Sì. Sul calcio di rigore, se c'era o non c'era, sì, se l'avesse toccato oppure. E lui insisteva nel dire che come se non fosse stato toccato dal difensore della Lazio, no? Mi sembrava anche evidente che il tocco ci sia stato, ma dunque? Sì, non è che... sì, vabbè, ma... proprio diciamo di Massimo Mauro, che molto probabilmente lui è antinapoletano, no? Molto probabilmente, ma non lo so, e insisteva su questo, che lui doveva ammettere che alla fine il rigore non c'era. Ma io non, comunque guardi, a prescindere dal singolo episodio, io non credo che uno debba per forza essere antinapoletano per fare una domanda che magari può essere tendenziosa, voglio dire, fa parte anche del nostro lavoro, senza essere anti qualcosa per forza. Alessandro Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno, vorrei dire qualcosa di conciliante verso Icardi, visto che lo state trattando, sì, praticamente come l'ultimo dei delinquenti. Non come l'ultimo dei delinquenti, perché? Penultimo. Chi l'ha detto? No, perché praticamente gli state facendo pure la morale, cosa che secondo me... Mi dissocio da qualsiasi forma di morale. Io mi dissocio da qualsiasi forma di morale. Sì, e io insieme a Pardo mi dissocio totalmente. Grande rispetto per la categoria dei cornuti, ma anche grande rispetto per la categoria degli amanti. Ognuno fa nella vita quello che gli pare, sì, non è che... vieni preso con la forza se qualcosa la fai, poi magari se sei un personaggio pubblico ed eviti di esternarlo, puoi fare quello. Io sono d'accordo, massima libertà di fare quello che ti pare. Non è lo stile, troppo. Comunque scusi, prego, dica Alessandro. sì, niente. Vabbè, secondo me ha fatto benissimo fino a questo punto. Ha fatto 8 gol, è un ragazzo giovane, 21 anni, in Serie A se ne vedono pochi così forti. Penso sì, insieme a Destro e Immobile sia tra i migliori attaccanti della Serie A. Lo vedo anche in prospettiva meglio di Balotelli, perché in campo sa anche comportarsi. Poi volevo dire un'altra cosa, che è vero che Conte ha detto o sia Juventini o anti Juventini, però negli Juventini ci metto anche una buona parte della classe arbitrale. Ah, va bene, quindi ha detto qualcosa di conciliante anche nei confronti della classe arbitrale, oltre che di Icardi. Fermiamoci un attimo per la borsa, dai Pier. Cioè, vi aspettiamo subito dopo 8.0024.0024. Convocati. Perché ad oggi, se dovessi assegnare la panchina d'oro, assegnerei a Garcia, perché so quanto la complessità nel lavorare a Roma in determinate condizioni. È riuscito a dare una stabilità, un ambiente, dare un'idea di gioco alla squadra, a dare continuità e dare equilibrio, cosa non certamente facile. Lo seguo molto perché mi piace il suo modo di proporre calcio. Quanto è equilibrato lei, Montella? Mi auguro che possa essere una partita spettacolare. Sì, sì, spettacolare, che possiamo vincere noi, perché con la Roma non mi è ancora riuscito. Io credo che Luca Telese, popolare conduttore di Matrix, sarà d'accordo con Vincenzo Montella. Ciao Luca. Buongiorno, sono Rudy Garcia. Sì. Rudy Garcia è un filosofo neuromantico, sta fra Parmenide e Socrate. Cioè, non è un allenatore di calcio. Addirittura? Beh, sì, è un uomo, diciamo, che ha una filosofia di vita e soprattutto uno stile, sì, no? Quindi lo comunica, ma non credo che sia, appunto, esula solo dalla dimensione del pallone, perché abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Ma certo, al centro del villaggio è una massima, anche quella del giardino al centro del villaggio sul quale giocare, ti ricordi quel giro di parole molto, molto immaginifico che fece il giorno della presentazione del nuovo stadio? Ma più, sì, parlo più, sì, Parmenide, sì, o più Socrate, o più, beh, o più, anche, o più... anche la natura detesta il caos, no? Ricorderete quando ci fu l'infortunio di Toppi a proposito delle scelte che doveva fare. Che, insomma, per dire che avrebbe trovato un equilibrio, no? In una sorta di estropia. E poi la bellissima lezione di filosofia morale dopo le dichiarazioni improvvide a ridosso del derby, quando qualcuno si augurava l'infortunio, e lui ha detto: siamo allenatori di calcio, ma siamo anche educatori. Io veramente, cioè, capisci, siamo oltre, al di là. Io questa figura dell'allenatore di calcio è educatore. E tutti convocati educational, eh? Sì, tutti convocati educational channel, è un momento, sì, un momento, sì, sì. Allora, Luca Teresi, dimmi qualcosa di bello sui Icardi, che a me non viene. Così. Ma così io sto con Maxi Lopez, scusate, cioè, no, ma anch'io, eh. Intanto non so quanti hanno notato le analogie fra Enrico Letta e Maxi Lopez. Entrambi hanno fatto il gesto impopolare per dignità della loro persona, quindi Enrico Letta ha mollato la campanella a Renzi come se fosse un gatto morto. Ma che domanda è, anche Enrico Letta ha sbagliato un calcio di rigore? Questa era preparata, dai. No, no, questa me lo metto adesso. Io sono un ragazzo reattivo, eh. Allora, non magro, ma reattivo. Lopez ha sbagliato il calcio di rigore, perché alle volte il destino decide, però quel gesto di rabbia, di dignità, me lo fanno apprezzare, no? Icardi non riuscirà mai a togliersi questa fama da perfettino fighetto che segna sempre, ma... Non riesce a avere lo spessore volumetrico che per esempio hanno altri bomber, no? E poi diciamo che Renzi farebbe dei tweet più concilianti, diciamo, rispetto ai Icardi, direbbe dopo la partita di ieri, direbbe dopo questa bella partita: voglio comunque ringraziare Maxi Lopez, felice di ritrovarlo presto per essere in disaccordo con lui. E poi per fortuna fra Renzi e Letta non c'è Vandanara, la first lady si chiama Fregonara, ma fa solo rima. Beh, il governo, Vandanara è il governo, Vandanara è la signorina presidenza del consiglio. Senti, Luca, ti faccio sentire una cosa, poi vorrei un tuo commento su questo. ma io espongo la teoria del culo metafisico, cioè non è statisticamente possibile che dopo due partite in cui il Genoa, ma il Catania anche, hanno messo in grandissima difficoltà la Juve, Catania, insomma, sì, hanno messo in difficoltà, Rollin ha fatto una partita straordinaria, hanno giocato tutti bene, veramente Catania giocano bene, ma insomma, e c'è poi un gioco del fatto per cui statisticamente nessuna palla entra dentro la porta. Mughini dall'iperuranio, buoni dal culo metafisico a Mughini. Allora, Luca Telese, la Juventus è culo metafisico, la Juventus contro tutti, la Juventus stasera con la classifica in mano, da legge in trasparenza, vediamo, vediamo dove siamo. Ma intanto io vi diffido da riprendere qualunque materiale da quel programma poco raccomandabile. Sì, il programma di brutte facce, sì. Lì sì, possono esprimere anche teorie immorali come questa del culo metafisico che mi è costata una fatwa, diciamo, della parte meno disposta alla provocazione intellettuale tipo juventino. Però la Juve ha avuto ovviamente sudditanza arbitrale quest'anno come un servomotore che interviene ogni volta la squadra in difficoltà, e quando non c'era quella proprio siamo stati disarmati dal culo, cioè da qualcosa che è celestiale, sublime, non, cioè meriti, non zero, meriti zero, cioè o sono gli arbitri o è culo. È così? No. Nella parte, diciamo, di deficit che qualunque squadra umana ha in un campionato, la Juve ha questi due motori come due bilancieri che entrano in funzione, altrimenti avrebbe almeno perso tre partite, ma diciamo qualche vittoria si sarebbe trasformata in pareggio. Però, la differenza, la partita con il Parma, Luca, la fanno i giocatori, la partita di Genova che è stata la partita più clamorosa da questo punto di vista, perché è vero che la Juve a Genova poteva perdere, però a Genova la Juve vince perché Buffon pare il rigore e Pirlo segna la punizione, e quello non è culo metafisico, quella è la presenza di giocatori che hanno degli attributi enormi e delle qualità enormi. Io non sono d'accordo, poi si sentiva anche la mia povera vocina lì da conduttore imparziale, però io penso che in generale è semplicistico parlare di culo metafisico, è semplicistico. Semmai la cosa sulla quale devo dire mi ha convinto Luca, che poi quelle partite lì contro il Genoa, contro il Catania, contro il Parma sono state partite importanti, perché la Roma sta facendo talmente bene che se la Juve avesse perso qualche punto in quelle partite lì, oggi parleremmo di un campionato diverso. Ma guarda, non è mica facile neanche correre sempre sotto pressione, come sta facendo la Juventus, messa sotto pressione da una Roma meravigliosa, per quanto ci possa essere per pressione a comunque a più 8, più 5, quello che è, perché sono tanti punti. Sì, però guardate, ci sono degli indicatori anche matematici, La Roma, se non erro, è vero che c'ora c'è lo disvalore di una partita, ma ha subito due gol di meno e segnato forse due gol in più, quindi diciamo che la media gol delle due squadre è identica. Credo sia addirittura meglio la Roma di un paio di gol, credo. Meglio la Roma di un paio di gol, però manca una partita, no? Quindi la Juve potrebbe migliorare. Diciamo che finora a parità di partite è stata omogenea. E quello che fa la differenza è che la Juve non, veramente in tutti i momenti decisivi della sua crisi, non dico quelli sfavillanti che solo un cretino potrebbe negare, no? La Juve ha avuto momenti irresistibili, i suoi giocatori hanno avuto delle trovate straordinarie, delle punizioni di Pirlo, io ancora soffro per quella contro il Cagliari, nei momenti di crisi un aiuto, un valore aggiunto la Juve ce l'ha. Sì, ditemi ancora una cosa, Luca Telese, poi per te Luigi Pardo. Sì, dimmela. Che c'è l'ideologia vittimistica di Conte e l'ultimo fattore imponderabile di doping della Juve, cioè Conte carica i suoi sempre con questo schema, noi contro tutto il resto del mondo. L'ultima dichiarazione di oggi sui non juventini e non juventini, uomini e topi, uomini e tutto il mondo fuori. No, posso fare una domanda a Luca, perché a proposito della fatwa, no? da quest'anno, complice la nostra amicizia, diciamo che lo vediamo, fra l'altro bravissimo, attività, capolemista straordinario, insomma la risposta romanista a Mughini, duelli dialettici meravigliosi, ma il popolo di Twitter, dei social network, come ti tratta? È peggio il calcio della politica, penso, no? No, peggio, ma senso, neanche negli anni 50 fra i comunisti di Mosca e i democristiani del Patto Atlantico c'era, cioè tu di mezza cosa sulla Juve sei inseguito da anche, ma non solo sulla Juve, dai, in generale, o provocatoria, sì, no, ma tu lo dici sulla Juve e quindi sono i juventini che si arrabbiano, ma se lo dicessi sulla Roma, no, sulla... però qui c'è una differenza, credo l'ideologia del vittimismo che Conte ha plasmato in questi anni, che è un grande motore, un grande serbatoio di energia, fa sì che il tifoso juventino sia sempre pronto ad arrabbiarsi, a prendere d'aceto. Ah, ecco, allora i rigori non ci sono, ecco, allora la manata, adesso ma non certamente hai, nel fallo di destro, cosa mi dai della manata di destro, so story. E io dico, è una manata. Ah, vabbè. Comunque sì. No, dobbiamo andare in fascia, che dobbiamo fare? Sì, no, adesso vi io saluto. Rimango altri 10 minuti, dai. Sì. Sì, come no, sì, ci mancherebbe altro. No, ma più che altro volevo chiedere una cosa a Luca Teresa al volo. Ma a te risulta che a Seedorf stiano cominciando ad arrivare le veline per la formazione, sulla formazione, Luca? No, non mi risulta. Forse arriverà Bonaiuti nella rosa. No, mi sembra che a Seedorf ci sono alcuni fenomeni anticiclici del calcio. Appena si è iniziato a fare il processo a Seedorf, il momento di massima impopolarità, ha inanellato una sequenza di risultati utili pazzeschi. E l'altro fenomeno anticiclico di questo campionato è la Lazio, cioè che a parte la sconfitta di ieri, però da appena i tifosi hanno svuotato lo stadio ha iniziato a fare 5 risultati utili consecutivi. Certo. Quindi bisogna stare attenti. Grazie Luca, buon lavoro. Grazie, ciao. A Luca Terese. Allora, sentiamo, abbiamo il traffico, poi torniamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, da oggi magliette di tutti i convocati in palio per il migliore in campo. Che cosa rispondi a chi è che insinua o pensa o dice che la differenza fra Juve e Roma sia stata fatta dagli arbitri? Guarda, non mi piace la domanda e quindi non ti do la risposta, ecco. Convocati. Salvatore, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno Carlo, è un piacere parlare con voi. Piacere mio, dica. Senta, allora io volevo intervenire sui casi. Sono interista. Ma possibile che non abbiamo una dirigenza che può far smettere questo cretino di twittare in questo modo? Io sentito ieri Mazzari, non so se l'avete sentito anche voi, voglio dire, gli ho detto se segni vai a centrocampo e questo puntualmente avete visto, no? Come no? Visto altro che? Ma dico, in che mani siamo? Poi ho sentito te che dicevi oggi il Twitter di oggi, mi sono imbufalito. Che vuole che le dica, Salvatore? Che posso dire? Sentiamo Mazzarri. Lui doveva riferimento a Icardi, Maxi doveva Lopez, non fare il gesto dell'orecchio, non lo so nemmeno che ha fatto. Poi il resto lui ha fatto il suo, ha fatto il giocato, anzi per l'ambiente che si era creato nei suoi confronti ha dimostrato grande personalità, non ci scordiamo che Icardi è giovane, ha questa esuberanza che lo porta a essere cinico e freddo. Questa se continua così e riusciremo a togliergli alcune cose che è superflue, sta diventando un grande giocatore, perché ha proprio nel DNA vede la porta, ogni palla va sul primo, attacca la porta, un centravanti con caratteristiche da centravanti vero, e deve pensare solo a giocare, quello che abbiamo cercato di dirgli. Questo era Mazzarri, cui si ha ragione Mazzarri Salvatore. In tutto, no, un commento su quello che diceva Salvatore, sì, che secondo me ha ragione. Cioè, pure secondo posso me dirvi per certo che per esempio Balotelli, di cui ultimamente parliamo un po' meno, e anche lì poi bisognerà mettersi d'accordo, nel senso che se la vita privata dei giocatori conta in campo, se la vita fuori dal campo dei giocatori conta, deve contare per tutti, evidentemente, non soltanto per alcuni piuttosto che per altri, anche se sicuramente qui è una questione più complicata e sicuramente i cambi. Ma per questa ragione, perché bisogna fare dei distinguo, no? No, certo, però voglio dirti che sul discorso dei Balotelli sicuramente a lui hanno fatto pressioni per non usare Twitter, per usarlo sempre meno. Vabbè, ma come è giusto che sia? No, non so se la stessa cosa viene fatta con Icardi e magari è lui che contravviene a questo simpatico invito. Sicuramente, insomma, il problema principale di tutta questa storia sta nel fatto che in questa serie di tweet pubblici che no, ma che poi è raro comunque, per questo dicevo bisogna fare dei distinguo, è raro che vicende di questo tipo te le trascini in campo in quella maniera, hai capito? Potremmo dire da condizionare la partita, perché chiaro, non ci fosse stata sta vicenda, allora Maxi Lopez magari fa tirare rigore ed magari quello lo, cioè, ci sono un sacco di magari, magari quello lo segna, magari non viene espulso, magari la partita va in un'altra maniera, che ne sappiamo, certo, però certo. È stata questa, la cosa curiosa è come tutta questa vicenda è stata trascinata in campo. Marco Urbino, buongiorno. Salve, buongiorno, io grazie della convocazione. Grazie. Volevo chiedervi come vedete il Milan dopo 4 vittorie consecutive. E poi anche una considerazione sul Catania, che ieri ha fatto una prestazione agonistica strepitosa, si è massacrato di botte e forse se lo faceva prima poteva anche salvarsi o perlomeno concorrere per la salvezza. Grazie. Questo è un argomento che mi piace già di più, Milan continua a vincere, ieri sera non è stato brillante, anzi non è stato per niente, e torniamo al discorso di cui sopra. Si dice che Montolivo insomma non era in cima alle preferenze di Seedorf per quanto riguarda la formazione di ieri sera, poi ha deciso la partita. Guarda, io ti dico, Montolivo è uno dei giocatori tra gli azzurri, tra i nazionali, forse quello che mi sta deludendo di più in questa stagione dal punto di vista della personalità, dopo aver giocato la stagione scorsa a livelli che onestamente non gli avevo mai visto, sempre dal punto di vista della personalità. Beh, ieri ha fatto un gran gol, è un giocatore che è sempre stato abbastanza intermittente, è un buon giocatore secondo me, è un buon giocatore. Quest'anno ha fatto molto ragioniere però, Sì, quest'anno ha fatto molto, diciamo che la notizia, ma secondo me vale in assoluto, di queste stagioni di Montolivo è che non è riuscito di fronte a una pochezza complessiva del centrocampo, da solo non è riuscito a risolvere i problemi, questo è evidente, però è anche vero che era da solo a risolvere i problemi, cioè io non me la sento di dire che è colpa sua, è soltanto colpa sua, probabilmente qualcuno sperava e si aspettava che potesse essere l'uomo capace di trasformare completamente un reparto, ce ne sono pochissimi al mondo, lui non è fra questi, cioè non toglie che sia un buon giocatore, per me è un buon giocatore senza alcun dubbio, non c'è discussione su questo, e non credo particolarmente alle teorie sulla poca personalità, sulla presunta poca personalità. Beh, insomma, non sta dimostrando tanto. L'anno scorso ha giocato con grande personalità, tanto che gli è andato la fascia di capitano, e voglio dire, come scelta era anche comprensibile, anche condivisibile, ma quest'anno davvero l'ho visto giocare molto da ragioniere, e per un giocatore che comunque ha quel talento, che sono anni diciamo quel talento, voglio dire, quest'anno è stato nel complesso deludente. Ma ci credi a queste, al di là del caso Montolivo, a questi consigli a Seedorf? Perché è indubbio come il Milan nell'ambito di queste partite, il Milan sotto commissariamento di Galliani, diciamo, sia diventato qualcosa di un po' più credibile, un po' più equilibrato. Sì, mi ha un po' insospettito più che altro la spiegazione data da Seedorf, no? Quando ha detto ci sono degli spifferi, ci sono delle cose che vengono fuori, non dovrebbero essere una specie di implicita ammissione che qualcosa è successo. In generale, in realtà, insomma, ci possono essere mille motivi per i quali un allenatore cambia a pochi minuti dal calcio d'inizio una decisione, insomma non la vedo di per sé come una cosa che debba diventare un caso cosmico. Devo dire che il modo nel quale poi è venuta fuori questa cosa in effetti un pochino insospettisce sulle scelte di Seedorf. Francesco Pesaro. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Io volevo parlarvi di Icardi. Cioè, Pierluigi, di solito c'è sempre cose che mi trovano d'accordo, ma ha detto ieri, ha dimostrato di aver personalità. Cioè, ma io mi permetto di farla, io voglio farla morare ai Cardi, perché se lui ogni cosa che fa lì espone questa situazione anche tra virgolette grave, familiare, lui twitta, io gli faccio la morale, perché non lo obbligo io a twittare, io voglio dire, lui può vincere anche il pallone d'oro calcisticamente parlando, però cioè, lui è un uomo, spessore ha un uomo così. No, però non mescoliamo le cose. In linea di massima io sono d'accordo con lei su quanto dice, però è vero che ha dimostrato personalità ieri, perché questo è obiettivo. Quindi, ragazzi, cioè, di che parliamo? Cioè, sei stato sfidato da duello, hai accettato questa sfida, sei andato molto sopra le righe, però ragazzi, bisogna anche avere gli attributi, no, Pier? No, no, io credo che si debba capire di che stiamo parlando. Certo. Se parliamo degli aspetti morali, se parliamo degli aspetti di comunicazione, se parliamo del catturarsi le simpatie di buona parte del pubblico, sicuramente Icardi ha preso una strada che non è meravigliosa, ma non credo gliene freghi niente, insomma, occhio e croce. Credo che lui in questo momento sia in piena estasi erotico-sentimentale, completamente innamorato di questa donna, pieno di adrenalina, giovane, felice, si sente figo. Ieri ha fatto una grande partita, ha sfidato tutto e tutti, ha fatto il suo duello e l'ha vinto. E ha fatto un gol pazzesco domenica scorsa. Che ci piaccia o no, poi uno può decidere. Certamente. Io penso che tutti noi nella nostra vita più o meno avremo vissuto dei momenti Maxi Lopez, dei momenti Icardi, no? Al di là del fatto che poi noi non sappiamo esattamente com'è andata, magari la realtà è molto più complessa. No, ma in fondo non ce ne importa. Non è che sei anzi, buono dalla parte e cattivo dall'altra. Invitiamo lor signori a dichiariamo pubblicamente che non ce ne importa nulla di com'è andata realmente. Ciao Pier, buon tiki-taka stasera, mi raccomando. Ah, così finisce. Ah, beh, certo, c'è il stasera tiki-taka, Paolo Cannavaro, e parleremo anche molto di Icardi, c'è anche Belen, c'è un po' di cose sfiziose. Ah, però. E poi ovviamente c'è il signor Cruciani. Ah, sì. C'è Gianmarco Dognazzi, c'è la dottoressa Casalegno, abbiamo insomma tante cose. Ciao. Ciao. A domani. Tutti convocati. Per dare l'idea, mentre a Genova ieri si viveva la saga di Maurizio Icardi e Maxi Lopez, e gentile signora, a Liverpool c'era questo tipo di clima e c'è stata una partita meravigliosa. Liverpool-Manchester City, vinto dai Reds 3-2 alla fine. Quale preferite? 800240024. Intanto dal rosso del Liverpool, il rosso più bello che c'è nel calcio, un colore pure mi metti i brividi, ha un rosso che è più sbiadito che mai. Allora, io obbedisco agli ascoltatori come Dario dal camion che scrive: mi chiamate il signor Turrini? Ho bisogno di una recensione psico pane salame su Domenicali. Poi c'è anche Michele che invece molto meno elegante nelle esternazioni, ma vuole fare la stessa domanda. E noi ubbidiamo. Leo Turrini, buongiorno. Ciao Carlo, come va? Benissimo. Certo, meglio tu di Domenicali in questo momento, eh? Allora, meglio io di Domenicali. Che cos'è successo lì? Perché la voce c'era già in giro, no? Però sì, così repentinamente. Allora, io stamattina ho avuto, devo dire, un colpo di fortuna di fare, come si dice oggi, online lo scoop mondiale, annunciando alle 9 che la Ferrari aveva un nuovo responsabile del reparto corse, del quale parliamo fra un attimo, che si chiama Marco Mattiaggi. Sì. Perché Stefano Domenicali ha dato le dimissioni, o se preferisci è stato dimissionato. Io ti dico subito che c'è una leggera differenza tra le due cose. Per la felicità che ho di stare qui con te, con gli amici di Radio 24, per me è un giorno di lutto, perché io considero Stefano Domenicali come un fratello, siamo praticamente coetanei, l'ho visto entrare a Maranello da ragazzo neolaureato, ha fatto tutta la gavetta. è uno dei pochi, se mi posso permettere, nell'Italia in generale, dello sport, non solo, a non essere un raccomandato, o come dice sempre mia moglie, un paraculato. Ha vinto tutto con la Ferrari di Todd Schumacher, perché questo nessuno glielo riconosceva, ma lui era il braccio destro di Chantal, sì. Per cui quando si parla di domenicali andrebbe anche detto, ma c'era anche nel famoso Dream Team, non in un ruolo secondario, come grande timoniere alla Mao Zedong del reparto corse dal 2008 in poi. Ha vinto un mondiale costruttori, ha perso tre mondiali piloti all'ultima gara, 2008, 2010, 2012. Volete dire, voi amici del calcio e del Liverpool, e salutatemi tanto Pardo, che arrivare secondi con la Ferrari è un'infamia, un'onta, una vergogna, un oltraggio? Io ve lo lascio dire, ma non sono d'accordo e dirò di più. È sbagliato applicare le logiche del pallone all'automobilismo. Sì. Questa è una cosa, è come cambiare allenatore alla terza di campionato. Ma certo. Non è che qui, hai capito, arriva il tuo amichetto Seedorf e aggiustiamo tutto, perché se la macchina è sbagliata, 50 cavalli in meno e non ha trazione, dubito che si possa risolvere mettendo questo Mattiacci, del quale, se vuoi, ti parlo. Così. Allora, io vorrei chiederti, primo, se ci sono state dimissioni o se è stato dimissionato Stefano Domenicali, e la motivazione è quella di dare una scossa alla squadra, ma non siamo noi che applichiamo logiche calcistiche, cioè questa dichiarazione esce da lì. Allora, no? dare la scossa alla squadra, parlando di Formula 1, è una barzelletta, e qui mi fermo, perché se la macchina non va, tu devi spingere la macchina, devi dare la scossa alla macchina. Tra l'altro, venerdì scorso, quando tutto ormai era definito, il mio amico Montezemolo e Marchionne hanno inaugurato un parcheggio a Maranello, e io lì ci ho visto un segno subliminale, perché la F14 sì, è ferma, e quindi inauguriamo un parcheggio in Ferrari. Ma adesso, al di là di queste considerazioni, come dire, metaforiche, qui la scossa non serve a niente, perché il problema è l'impegno tecnologico. La Ferrari ha perso nell'immediato la sfida con Mercedes sullo sviluppo delle nuove tecnologie Power Unit, ci vorrà tempo per recuperare. Per venire alla prima domanda, Carlo Genta, lei è un fuoriclasse, non faccia l'ingenuo. Io do le dimissioni perché vengo invitato a dimissionare. Hai capito? Però c'è una roba che dovete riconoscere al Domenicali caduto, sì. Che dando lui tecnicamente le dimissioni esce completamente dal gruppo Ferrari via, e questa è una cosa, devo dire, di grande dignità. Certo. Le dimissioni non sono molto popolari, diciamo, non solo nello sport italiano. Ma guardate che questa persona, parlo di Domenicali, è un bravo manager, è una persona per bene. Poi se mi dite, ma sta macchina qui sembra una carriola dipinta di rosso, io vi do ragione, cosa vi devo dire? Volete che mi dica che va forte? No? Anche perché è impossibile, Leo, a parte il fatto che... No, ma che, questo invece, dimmi chi è questo che io non conosco, confesso dalla mia ignoranza, che arriva dalla Ferrari North America al posto di Domenicali. Nell'ambiente, diciamo, dello sport automobilistico, Mattiacci non è conosciuto perché ha avuto sempre ruoli nella dimensione più strettamente aziendale e commerciale della Ferrari. Sì. Io lo conobbi a Singapore anni fa, perché lui era responsabile della divisione Asia-Pacifico. Sì. Della casa di Maranello, poi è andato a gestire Ferrari Americhe, ha fatto benissimo in questo suo lavoro, lo dico in senso positivo, commerciale. Mm-hmm. E risulta che le sue esperienze di corsa, appunto, non è un po' come mettere il tuo commercialista su una panchina? No. Io direi siano pari alla conoscenza dell'Eneide da parte di Mario Balotelli, cioè zero, perché io escludo che Balotelli conosca l'Eneide di Virgilio, ma potrei dirti anche Cassano, no? Dopodiché, questo in sé non è detto sia un passaggio negativo il fatto che lui non abbia una competenza specifica, perché quello, per tornare al discorso del calcio, che molti non comprendono da fuori, è che il gestore del reparto corse non è un ingegnere, non è lui che fa la macchina. Sai qual è la responsabilità di Stefano Domenicali? Questo sì. Sì. Che gli uomini a dirigere le varie aree, sviluppo aerodinamico, galleria del vento, power unit, eccetera, in questi anni sono stati scelti da lui. Sì. Allora, di questo è giusto chiedergli conto. Sì. Da lì poi a dire è tutta colpa sua, è la Ferrari è ridotta così perché Domenica Ali è troppo buono, perché ho sentito queste robe per anni, no? Sì. E non ha il carattere. Ma io ne ho letto un sacco anche stamattina, Ma certamente, perché stavano preparando il piattino, tu sai come funziona il sistema della comunicazione in Italia, no? Certo. Ma secondo te, scusami, se nel 2012 Alonso non avesse perso il campionato di 3 punti causa 2 incidenti in partenza, in quali sia lui che la Ferrari erano completamente estranei, oggi ci saremmo sentiti raccontare che Domenicali non è un uomo di polso. Se Massa nel 2008 non avesse perso il titolo una curva dopo il traguardo perché 2 Toyota si fermarono per far passare... No, certo, non avremmo sentito questi discorsi, Domenicali sarebbe rimasto lì e tutto avrebbe preso una piega diversa. Lo dico per onestà intellettuale, poi dopo ognuno è libero di dare... Di fare le valutazioni, che vuole. Tante volte a seconda negli ultimi anni, no? E ci può essere chi dice, ma un'azienda come la Ferrari, il marchio, il prestigio, eccetera, o vince o è una disfatta. Certo, io vorrei dire che la Mercedes è tornata in Formula 1 nel 2009, fino a quest'anno non l'ha mai vista. No, non l'ha mai vista e non poteva rischiare di non vederla per ancora per lungo tempo, anche perché ci metti la faccia, il nome, un sacco di soldi, prima o poi devi tornare a vincere. Lei, io ti ringrazio con il messaggio di Michele che vuole la tua la maglia di tutti i convocati che da oggi mettiamo in palio, firmata da Leo Turrini, quindi quando passi qui ti faccio fare un autografo. Sai, io quando sento Carlo Genta, tutti i convocati come Benigni, mi vorrei mettere tutti in nudo. Questa è la più bella trasmissione che ci sia nell'etere, non dico italiano, europeo, ma anche caucasico, ecco, anche nelle terre di Punti, hai capito? Grazie, ti voglio bene, ciao Leo. Ciao. Luca da Forlì, allora vediamo se riusciamo ad eleggere il migliore in campo di questa giornata. Poi cambiamo argomento. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Dica. Grazie della chiamata. Intanto intervenire dopo la Bibbia della Formula 1, Leo Turrini, non è facile. No. Dica. Però io lo condivido in pieno, nel senso che penso che Stefano Domenicali lo reputo uno che, come ha detto Turrini, ha dei meriti, è un buon manager. Cambiarlo ad oggi, non so, secondo me è una mossa più per accontentare una parte dell'opinione pubblica, direi quasi della disperazione, perché è chiaro che non cambierà nulla. Perché di gente che viene chiamata fenomeno come Gian Todt e Concordo è arrivato nel 93, ha vinto il primo titolo nel 2000. Sì. No, questo è vero, si leggeva anche di un possibile richiamo per Ross Brawn, però vuole una montagna di soldi, un sacco di poteri e non, alla Ferrari non se la sono sentita, insomma, di rimettere in piedi questo Barnum. Poi è anche vero che, voglio dire, non per buttarla semplicisticamente di nuovo nel linguaggio calcistico, però alla fine chi si prende responsabilità e deve prendersi responsabilità l'allenatore, è stato cambiato, però ha ragione Turrini, dopo 3 giornate di campionato con una macchina che non ha nessuna possibilità, nemmeno con un miracolo, di tornare ad essere competitiva in questa stagione. Luca, grazie. Poi D'Ambrosio morbido per Palacio, Icardi è solo, il cross per lui, Icardi! Sampdoria 0, Inter 1! Ancora Samp in attacco, Castaldello messo giù, calcio di rigore! Parte Maxi Lopez e la parata di Handanovic! Kovacic dentro per Palacio dentro per Icardi, la doppietta di Mauro Icardi. Lui doveva riferimento a Icardi, doveva non fare il gesto dell'orecchio, non lo so nemmeno che ha fatto. Tu avresti stretto la mano a Icardi? Sì, bisogna farle queste cose, quei però sono cosette che sono, guarda, così non posterà né dietro. non lo so, la colpa tanto è solo della moglie. La colpa. L'avresti stretto? L'avresti stretto? La colpa è solo della donna. Non so se preferite questa o quella che abbiamo fatto sentire prima, cioè Yuna che veniva Walk Alone cantato ieri dai tifosi della Deliver. Poi è vero, c'è chi dice ma noi siamo italiani, no? Smettete di scimmiottare gli inglesi, eccetera, eccetera. Però mi sembra che, ma può esserci anche chi preferisce Beautiful, non ho niente da dire, non sto dando un giudizio di valore. No, Gianni da Biella preferisce. No, Gianni da Biella, dove sta? Caduto Gianni da Biella. Non ho capito. Ah, non ci sono. Va bene, adesso arrivano gli ascoltatori. 800 24 00 24. No, stavo dicendo che insomma poi ci sono un sacco di discorsi più interessanti che possiamo fare, ma se ne avete voglia, ad esempio è vero che in queste giornate un po' fintarelle come quella di ieri, e dobbiamo abituarci perché ne vedremo da qui alla fine della stagione, c'è chi ride ed è certamente Prandelli che si trova ad avere le mani piene di attaccanti, di gente in grande condizione, e in questo momento deve tocca a lui fare le scelte. Intanto avete sentito che continua ad avere un occhio di attenzione per i nuovi italiani, convocato Romulo del Verona, che pure mi sembra un eccellente acquisto per la nazionale, però soprattutto al capitolo attaccanti che Prandelli in questo momento ha davvero di che riflettere, diciamo così. Angelo, buongiorno. Buonasera a lei. Buonasera, da Savona. Premesso che non sono sandoriano, ho visto la partita ieri. Sì. Allo stadio? Allo stadio, sì. Sì. Alle bordate di Fischi, non sapendo nulla, ho chiesto ai miei vicini, tutti sandoriani, sì, il motivo per il quale veniva fischiata Icardi. Ma a me la motivazione di questi tifosi è stata data che lui, quando era l'ultima partita della Sampdoria, ha buttato la maglia per terra come Balotelli. Non gliene fregava niente del gossip. Sì. Tutti i giornali, e voi fate, sì, no, fate questo dicendo che è perché la moglie. No. Ma non gliene frega niente a nessuno, è perché ha buttato via la maglia. E non si questo, anch'io. Questo sì. Non si può permettere una cosa del genere. Io volevo solo dire questo, che il motivo vero, detto dai sandoriani, è che ha buttato via la maglia. Sì. Non perché scrivi su Twitter. Secondo lei, sì, su Twitter leggono 40.000 persone, tutti i sandoriani, si sono passati la voce. Scusi, sto soffrendo, no, perché cammino. No, ma prego Angelo, non si affatichi. No, ma il discorso è un po' diverso. Certamente Icardi e la Sampdoria si sono lasciati male. E poi c'è stato un insieme di situazioni, compresa quella dei tweet, compreso il fatto che alla fine tutti i giocatori della Sampdoria ieri hanno cercato di difendere l'onore ferito di Maxi Lopez, e comunque io una cosa del genere, sinceramente, una tale ingerenza, è vero che c'è stata la storia della maglietta, anzi. Gian Piero Timossi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Secolo XIX, sì, ovviamente tutti lo conoscete. Allora, ho un ascoltatore da Savona che mi dice: ma ieri fischiavano Icardi perché si è lasciato male con la Sampdoria, ha buttato la maglia della Samp per terra, eccetera. Io dico, c'è stato un concorso di situazioni che sinceramente io non ho mai visto, non so tu. Ma sì, sì, io sono abbastanza convinto che una buona parte dell'accoglienza nei confronti di Icardi a parte dei tifosi si è dovuta soprattutto al suo atteggiamento nei confronti della Samp. Sì. Concordo con quanto ti ha scritto da Savona il tuo ascoltatore. Perché soprattutto i tifosi ricordano quello nel loro linguaggio, nel loro codice. Fare quello che ha fatto Icardi equivale a comunque tirarsi addosso l'ostilità di tutti i tifosi. Insomma, Icardi deve il suo arrivo, la sua esplosione in Italia alla Samp, e obiettivamente non ha mai, come il 99,9% dei calciatori o dei professionisti in generale, perché sì, tendo sempre alla gara, non ha mai ma niente accarezzato neanche per un istante l'idea di poter rimanere alla Samp a quelle che erano le condizioni che gli proponeva la Samp. Quindi una buona parte di questa vicenda credo sia dovuta a questa. E poi senz'altro bisogna aggiungere questa storia che a me francamente per alcuni aspetti ha sempre incuriosito, che dico la verità, anche divertito abbastanza. Insomma, i tweet di Vandanara sono invertenti. Ingerenza nella vita privata di tre persone, bah, non, ti dico la verità, non ne sono tanto convinto, sai, perché insomma il gesto di ieri era un gesto che entrambi i contendenti probabilmente studiavano, pensavano, aspettavano da settimane, certo, da mesi, no? Ma il fatto quindi, che non è insomma, che se c'è ingerenza nella vita privata, sono loro che portano la vita privata a pubblica conoscenza, questa, no? Questa grande capacità o questa volontà, tutti i protagonisti della vicenda. Forse da questa storia, effettivamente da questa voglia di pubblicità, bisogna dargli atto, si è abbastanza sottratto Maxi Lopez, no? Insomma, sì, così. Questo certamente. Io però Icardi e Vandita, per chiamarla col suo account Twitter, perché non sembra che sia la più importante, Vandita, no, non si sono mai sottratti. No, oggi compreso, ieri compreso, in settimana compreso questa foto che avrà senz'altro fatto la gioia di molte tifose dell'Inter, non solo di Icardi, quasi da mitico, con fazzolettino, no? Ricordavo era, un po'. Sai, la nuova moda dei twitteristi, no? Quelle statue, il selfie post coito, non so come. Chiamiamolo autoscatto, ok? Selfie è più. Anche perché secondo me di più viene meglio. No, però la cosa curiosa, anche a me incuriosisce la vicenda. Poi mi sta abbastanza antipatico Icardi, però non so che dire, perché insomma che fatto? No, ma questa storia qui ci sono di mezzo anche non voglio fare moralista, quale non sono assolutamente, però è stata una cosa, secondo me è una cosa un po' di cattivo gusto, però quello non che so, ti io dico sono però una cosa, scusami, se dico una cosa però la voglio dire, una, dirla. Cioè io voglio considerare anche la versione di Wanda, sì, che non sto scherzando, però siamo onesti, perché poi in queste vicende ragioniamo sempre con schemi abbastanza consolidati che ci vengono un po' dalla storia della nostra cultura, insomma, quindi voglio dire, non, la donna non può tradire l'uomo, però insomma Wanda ci ha raccontato più di una volta in maniera dettagliata che la prima tradita è stata lei, insomma, quindi che Maxi aveva. Allora, non lo so, è una storia, francamente sarebbero un po' affari loro, però loro ce li raccontano quotidianamente, appunto, allora appunto, diventano anche affari loro. Che io dico. No, ma poi la cosa curiosa alla fine per chiuderla lì è stato comunque il fatto che questa storia è vero del cattivo rapporto, del cattivo divorzio tra Icardi e Sampdoria, però è anche vero che ha influito, cioè è entrata in campo questa storia perché quello è andato a prendersi la palla, il rigore lo tiro io, caro Eder, e quindi poi la partita si è diretta in un'altra, per un'altra strada, no? Sì, quindi, per dire alla Mourinho è stato un po' pirla, ma chi lo fa, perché cioè, questo rischio c'era, quello già aveva fatto un gran gol, già ti aveva dato la mano e tu lo hai in maniera sprezzante ignorato, già aveva fatto le peggio cose, cari, e quello è un gesto che francamente non approvo, perché sei un professionista, ma non lo approvo, ma non per stare dalla parte dei tifosi in questo caso della Sampdoria, ma perché non si va a provocare i tifosi alla squadra avversaria, no, soprattutto sono i tifosi che fino a ieri ti hanno permesso di fare queste cose qua, quindi errore clamoroso, però già aveva fatto una sua brutta figura, cioè Maxi Lopez aveva solo da perdere da questa situazione, infatti è andato a tirare questo rigore e ha sbagliato in maniera abbastanza maniera clamorosa. Grazie Giampiero, ti abbraccio. Grazie a voi. Fatemi sapere se ci sono altri tweet, ci tengo. Okay. Vigilate anche voi su Vandita. Vai tranquillo, ti diamo una mano. Ciao. Ciao Giampiero Timossi, ci vediamo per la borsa. Tutti convocati. Allora, vi ricordo, da oggi, questa super iniziativa di tutti i convocati, perché vogliamo lanciare questa griffa, magliette di tutti i convocati, per chi? Ogni giorno per il migliore in campo, cioè a nostro insindacabile giudizio, per l'ascoltatore che ci ha più divertito, che ci ha più appassionato, che ci ha proposto l'intervento più, così, più cool, visto che ho detto selfie, adesso dico cool, va bene? E poi c'è un altro invece, convocato per un giorno perché vi vogliamo tutti opinionisti per fare come dovete fare. Allora, www.radio24.it, il nostro sito, trovate tutte le informazioni, ci inviate un file MP3 in formato MP3 con un vostro commento di durata non superiore a 60 secondi, quindi come un pezzo radiofonico, un servizio radiofonico, su un fatto che scegliamo noi, in questo caso, questa... che Repubblica chiama le conseguenze dell'amore, titolo dei servizi sportivi di Repubblica, ovviamente la storia di Icardi, eccetera, questa strana giornata che a Genova si è vissuta ieri. Ebbene, poi sceglieremo, invieremo magliette tutti convocati autografata da uno sportivo d'eccezione, a nostro insindacabile giudizio anche in questo caso, e chi vince verrà qui con me a commentare un giorno, per un giorno, i fatti sportivi, quindi sarà nostro nostro ospite e nostro nuovo opinionista. Ho detto tutto, va bene? Nicola da Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. È stato chiaro, ha capito? Sì, sì, chiarissimo. Benissimo. Allora, volevo manifestare la mia solidarietà, perché sinceramente la tengo in mezzo al cuore, la stimo, l'ascolto, di solito intervengo alla Zanzara, ma questa volta intervengo da lei. Bravo. Ma perché? No. No, ma adesso che le dico perché, forse un po' le dispiacerà. Siccome lei fa di tutto per tenere in vita una trasmissione molto bella, su un campionato purtroppo patetico. Siccome non lo sento dire, noi abbiamo il più brutto campionato degli ultimi 50 anni. Un campionato che io posso equiparare a un campionato della metà Africa. Lei dice? Come qualità. Assolutamente mediocre, dove una squadra, anzi due, che hanno qualcosina in più dominano, ma sono squadre mediocri anche quelle, in un campionato deprimente. Le dico questo, io salvo soltanto un calciatore in questo campionato, che Andrea Pirlo, che secondo me è l'unico talento assoluto degli ultimi 50 anni del calcio italiano. Beh, però qualcosina di interessante, qualcosina di interessante vediamo, perché immobile, cerci, scuffe. Con tanta attenzione di Icardi, di Maxi Lopez, francamente è una cosa demoralizzante, cioè, ma cosa ci può fregare a noi dell'amante di Maxi Lopez? Ma sa, molto interessante. No, le spiego, parliamo di calcio. Noi abbiamo un campionato che non si può affacciare in Europa, fa anche in Europa League. E dunque va a andare a Icardi tutta la vita. Cioè, visto, lei mi sta dicendo. No, capito. Campionato fa schifo. E allora parlo. Lei è un equilibrista. Ma non sono equilibrista, mi diverto davvero. Io mi diverto sul serio, perché. Ma poi, con queste cose. Mi diverto con tutto, perché. No, ma perché fa tutto parte di questo grande pacchetto che è il calcio. Concorda con me che questo è un campionato di una qualità veramente scadente? C'è scadente. Allora, io ho visto due partite ieri, Sampdoria-Inter e una partita di Serie B sabato del Pescara, sono tifoso del Pescara. E neanche l'Inter regionale di qualche anno fa. Anch'io mi diverto poco, anch'io mi diverto poco guardando la maggior parte delle partite, perché in Italia si gioca un calcio troppo frammentato, ma come abitudine, si gioca un calcio che è continuamente rotto e interrotto e insomma non vediamo grande continuità, molto tatticismo, molta fisicità negli spazi brevi, uno scatto è un calcio di scatti e ripartenze molto interrotto, molto spezzettato. Anch'io non mi diverto, però non mi diverto nemmeno a vedere il campionato spagnolo, dove le partite finiscono 8-1, anche quella a me non piace sinceramente. Poi è chiaro, l'Inghilterra è un'altra storia, ma è un'altra storia come modo di giocare. Alessandro da Arezzo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a chi è in ascolto. Io sono interista adesso, per cui a me Icardi sta simpatico, perché segna, esulta, non fa l'ipocrita di non esultare dai franti ai suoi vecchi tifosi, mentre invece mi sta più antipatico Balotelli quando butta la maglia per terra. E poi una cosa, posso farle una domanda? Sì. Una domanda di carattere regolamentare. Se al derby della penultima giornata Milan-Inter i tifosi dell'Inter ponessero un striscione con su scritto "siamo venuti a vedere il negretto di famiglia", sarebbe razzista o ironico? Secondo me sarebbe razzista, anche se ovviamente so a cosa si riferisce lei, cioè sarebbe una frase riportata tra virgolette. No? Esatto. Lo sappiamo tutti. Un virgolettato. Secondo me resterebbe comunque uno striscione di pessimo gusto, come di pessimo gusto fu quella uscita, sappiamo, di Paolo Berlusconi, perché è nota, no? Cioè è stata riportata così dalle cronache. Io direi meglio evitare. Poi è chiaro che gli interisti non perdoneranno mai a Balotelli quello stupidissimo gesto, quel gesto ampiamente provocatorio, non glielo perdoneranno mai, sarà contestato come sempre, mi auguro con intelligenza e ironia, come spesso i tifosi riescono a fare. Antonio, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo farvi complimenti per la trasmissione. Io telefonavo solamente per rispondere a Telese e diciamo anche in parte per rispondere ai vari liguori, eccetera, così. Di piantarla di tutte le volte. Io sono chiaramente tifoso juventino. ma sono uno di quei tifosi comunque che gli piace anche vedere i giocatori bravi delle altre squadre. Di piantarla tutte, io ricordo dai tempi di Viola eccetera, di continuare tutte le volte che c'è di mezzo la Roma, finisce ogni volta c'è il campionato che finisce in cacciara. Sì. L'ha fatto prima anche con i tifosi della Lazio, prendendoli in giro dicendo che la Lazio vince quando i tifosi se ne vanno eccetera. No, sono molto bravi sempre a metterla in cacciara eccetera, ma basta. Ancora parliamo del rigore di Pirlo, del rigore di Pirlo col Torino, e lì era scontato che Torino vinceva la partita, mentre poi della manata di destro che sono Antonio, a calcio, un po' di polemica ci sta, dai, cioè, il contraltare è Mughini, e allora la polemica che fate voi eccetera mi va benissimo, e quando vedo che questa gente qui ce la mette sul serio, non è sul serio, facciamo la tara anche a questo, cioè la interpreto nella stessa maniera. Ripeto, la Juve probabilmente negli anni passati ma chiaramente io a calcio, ripeto, ho giocato, sì. e quando sei al vertice comunque ti capita sei più volte passi più tempo nella difesa avversaria, nell'area avversaria che nella tua, è chiaro che ma però sempre continuarla a menarla su ste cose, ma basta. Sì. Io amo molto Roma, tra l'altro, e quindi no, però Antonio, lei ammetterà che il contraltare può essere Mughini, allora è divertente anche sentire Mughini che invece adotta altre strategie, che difende la Juventus, cioè io le valuto queste cose grosso modo sullo stesso piano, cioè, mi divertono entrambi, ecco. Poi è evidente che poi Conte dice, anche Conte secondo me eccede quando dice abbiamo soli contro tutto il mondo, e va bene, ma vi sfido a trovare uno juventino che un giorno possa fare tipo per in una qualunque partita di coppa, di quello che vi pare, possa fare tipo per l'Inter, voglio dire, stessa cosa, no? Le grandi squadre catalizzano anche, diciamo, il vado avanti con i neologismi, il gufismo che ha pieno diritto di cittadinanza, secondo me. Francesco da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, volevo una sua opinione in merito a un episodio accaduto ieri in Livorno-Chievo, passato in secondo piano, secondo me, perché evidentemente le due squadre, non essendo di prima fascia, magari hanno... Ma quale? Quello dei livornesi, dei giocatori del Livorno costretti a genuflettersi in quella penosa scena molto peggiore di quelle che abbiamo visto a Genova per molti aspetti, quelli dei giocatori costretti a genuflettersi davanti ai tifosi per chiedere scusa? No, io mi riferisco a un episodio di gioco che è questo. Io prometto che sono un tifoso del Chievo, e in occasione del rigore concesso al Livorno, in realtà la palla era uscita dal campo qualche secondo prima che l'arbitro concedesse a torto o a ragione il rigore per il fallo più o meno presunto provocato dal difensore del Chievo. Allora, la cosa assurda è, ma per stessa missione di Sky e quant'altro, è che la palla era uscita di un pallone, grosso modo. C'era il giudice di porta, adesso non so nemmeno come definirlo, sì. C'erano il guardialine, perché le immagini, l'arbitro di fondo campo, l'arbitro di fondo campo, che era a non più di 2 metri dalla palla che era uscita. Allora io mi domando, senza voler fare polemiche, facciamo neanche, perfetto. Si fa fatica a pensare alla buona fede di un arbitro che sta lì soltanto per guardare se la palla passa o meno una linea. Sì. Lui era a 2 metri, la palla era palesemente uscita, parlano le immagini televisive, senza bisogno che aggiunga altro. Si fa fatica a pensare alla buona fede di questa persona, perché adesso lasciamo perdere, a me dispiace per i giocatori del Livorno, i tifosi e quant'altro, però se per caso il Chievo avesse perso la partita ieri, questa cosa sarebbe comunque passata in secondo piano. Non è detto, siamo qui a parlarne, siamo qui a parlarne giustamente, ma allora, però si tratta di decidersi, cioè che sia stato un errore è indubbio. No? Poi il passaggio successivo è: ha fatto apposta o no? E allora qui il terreno diventa enormemente più scivoloso, perché se è stato un errore è evidente, no? Come abbiamo visto quello, ne abbiamo visto un miliardo d'altri. La settimana scorsa siamo stati a parlare tutta la settimana di quello che è stato chiaramente una svista arbitrale, quella di Cagliari, no? Con tutto l'ambaradan della prova televisiva, squalifica di destro, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato per una settimana. Allora, errore sì, L'ha fatto apposta? E questo è il domandone. Tutti convocati. C'è Michele che scrive che ne dite della Ducati di Dovizioso. Volevo parlarne, vorrei parlarne, ne parlerò certamente domani. Intanto vi faccio sentire il Dovi che ieri ha fatto. Ma ciò che mi sorprende, ciò che mi entusiasma non è tanto questo terzo posto, quanto il fatto che mi sembra che la Ducati stia trovando un po' di continuità, molto presto, solo due corse, ma intanto la moto va. Dovizioso. Come ci sta bene qui? Il podio, l'ero dimenticato. Bello, bello, gran gara, ma difficilissima. Quando è così faticoso, la soddisfazione finale è ancora più grande, stupendo. Ho dovuto non esagerare all'inizio, non riuscivo ad andare più forte, ma non sono andato nel pallone. Stretti i denti, stretti i denti, stretti i denti. Poi tutti abbiamo avuto un sacco di problemi di gomme, chi più chi meno. Ce l'abbiamo fatta. Eh sì, adesso sono curioso anche di vedere il terzo atto. Intanto ieri, insomma, abbiamo visto quella di Marquez, non è stata neanche una gara, tanto è stata facile, tanto che la battuta di... poi neanche tanto battuta di Marquez, ha detto: ragazzi, qui mi rischio di addormentarmi alla guida, o riuscite a darmi battaglia, questo sta rischiando di diventare il Vettel del moto mondiale. Ma abbiamo visto, sapevamo che la Honda era una moto praticamente imbattibile su quella pista in Texas, però sulla mano che non si aspettava qualcosa di più dalle due Yamaha. Valentino Rossi ha distrutto una gomma dopo sette giri, il che è abbastanza incomprensibile, e Lorenzo, come avete visto, ha cercato di anticipare la partenza proprio perché sapeva che altrimenti non avrebbe avuto mezza chance. Non indimenticabile la gara di ieri, al di là del risultato di Valentino Rossi da un lato e al di là della grande esplosione di Dovizioso. In Moto3 c'è stato invece un italiano che è andato molto bene, Romano Fenati. Modello Romano Fenati. Ciao a tutti. Bella gara, no? Direi di sì. No, sei divertito? Molto, molto. I sorpassi all'esterno, in staccata, lì in fondo al rettilineo lungo, erano duri, ma belli. Miller ha resistito all'interno all'ultimo giro, se no lo fregavamo. Gomma che ha funzionato meglio nella seconda parte di gara. Sì, abbiamo trovato un setup migliore, evidentemente, perché non l'avevamo portata avanti nelle prove la gomma, quindi non sapevamo se il consumo era buono, ma a questo punto penso che sia ottimo. Grazie. Ciao. E questo era Romano Fenati del team, ovviamente, VR46, quello che Valentino Rossi ha adottato in Moto3. Massimo Ascoli Piceno, buongiorno. Carlo, ciao. Mi fa particolarmente piacere intervenire ora, subito dopo Romano Fenati, ascolano come me. Certo, certo. Complimenti a lui, bravo. E anche a te, che per il tempismo. Bene, fortuna, semplice fortuna. Allora, parlando di cose serie... Sì. Piuttosto che Wanda Nara, sì. Ma l'hai vista mai la sorella di Wanda Nara, Zaira Nara? Sì, ma a me fa impazzire una nell'altra, ti posso dire. Ex di Forlan, tutt'altra cosa direi. Sì, va bene. Va bene, poi un'ultima cosa, io sono un tifoso laziale e finalmente annoto una prestazione decente di un giocatore che a me sinceramente piace, Felipe Anderson, che finora è stato un flop. Sì, anche a me. Però credo che sia un grande talento, quindi spero che gli si dia la possibilità. Anche se mi intriga di più Keita, ti posso dire. Ma sì, sicuramente. Però questo qui ha un carattere diverso, magari un po' più chiuso, meno estroverso, ha bisogno di più fiducia e spero che gliela diano, anche perché non è costato poco. No, non è costato poco, ha anche avuto diversi guai fisici, non è mai riuscito ad entrare in pieno in squadra. Ripeto, secondo me le giornate di adesso, quello che ci resta di questo campionato vale il giusto, perché vale il giusto, perché insomma adesso sono partite un po' così, ci sono molte squadre, io continuo a pensarlo che ormai non hanno più moltissimo a chiedere a questa stagione, quindi possono anche magari selezionare partite. Questa mi interessa di più, ad esempio sono convinto del fatto che per vari motivi Atalanta-Verona sarà una grande partita che entrambe vorranno vincere. Allora, il primo che vince la maglia di tutti i convocati, il primo che vince la maglia è Angelo da Savona. Vi ricordo però che questa maglia la daremo tutti i giorni al migliore in campo. C'è poi quella versione speciale extra lusso con autografo di un grande campione, per chi ci invierà il miglior commento, 60 secondi, il miglior commento via audio MP3, trovate tutto sul sito radio24.it e poi verrà convocato qui da noi per un giorno. Però intanto oggi migliore in campo Angelo da Savona. Angelo, buongiorno. Ho visto la partita ieri. Sì, allo stadio? Allo stadio, sì. Sì? Alle bordate di Fischi, non sapendo nulla, ho chiesto ai miei vicini, tutti sandoriani, sì, il motivo per il quale veniva fischiata i cardi. Ma a me la motivazione di questi tifosi è stata data che lui, quando era l'ultima partita della Sampdoria, ha buttato la maglia per terra come Balotelli. Non gliene fregava niente del gossip. Sì. Tutti i giornali, e voi fate... Sì, no, fate questo dicendo che è perché la moglie, no, ma non gliene frega niente a nessuno, è perché ha buttato via la maglia e non si spiega questo... anch'io. Allora, Angelo Savona, prima maglietta di tutti convocati per lui. Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare un commento riguardo a questa moda di costruire gli stadi proprietà, in uno specifico per quanto riguarda Milano. Abbiamo uno stadio come quello di San Siro che fino a qualche tempo fa era riconosciuto come tra i migliori al mondo, e oggi si parla di costruire addirittura due nuovi stadi di proprietà, sì, delle due società. Sì. A mio parere, ora non so se lei conosce la zona, immagino di sì, molto bene, la zona San Siro, si presterebbe, visto che non esiste sostanzialmente più l'Ippica, alla costituzione della vera e propria cittadella dello sport. Sì, certo. Potrebbe essere di utilità per entrambe, sì, le società. Io, però Luca, io insieme a lei rinuncio a capire i piani di sviluppo, diciamo così, cioè fatico a capire i piani regolatori e logico con cui vengono fatte queste operazioni. Lei ha perfettamente ragione. Allora, San Siro è un monumento, ok? È un monumento nazionale, perché così è. In questo momento è uno stadio inadeguato per i canoni della normale civiltà europea del 2014. In questo momento è inadeguato. Costruire altri due stadi e poi lasciare lì San Siro per quale scopo non lo so, però ripeto, fatico a comprendere i piani di sviluppo, quali siano le logiche che stanno sotto queste esigenze, no? È vero però che lei lo sa benissimo, in questo momento San Siro, come tutti gli altri stadi italiani salvo quello della Juventus e quello del Sassuolo che non ha casa di proprietà, sono scomodi, inadeguati, difficili come accesso, insomma hanno un sacco di pecche e di difetti. Quindi se riusciamo a costruire qualcosa di interessante, allora ben vengano gli stadi nuovi. Dunque, sì, parliamo anche di ciclismo. È ovvio che so benissimo cosa è successo ieri a Misano, una tragedia pazzesca. Non dico una parola, no, perché non me ne vengono. L'unica cosa che posso dire è che sarò cinico, però la morte qualche volta nel motociclismo è parte del gioco. Chiudiamo su due ruote il finale della Parigi-Roubaix, dandovi appuntamento per domani. Franco Piantini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, ciao a tutti. Nicky Terpstra ormai è all'ultima curva. La Olanda non vinceva la Parigi, un olandese non vinceva alla Parigi-Roubaix dal 2001 con Knaven. Oggi è il giorno della vittoria, il giorno del trionfo, con uno dei capitani dello squadrone Omega, con Nicky Terpstra. L'aveva già sfiorato, l'aveva già accarezzato questo sogno. Oggi il sogno per lui diventa realtà.